difficile cambiare, com'è difficile aspettare, fare da madre a amare quando nulla c'è, com'è difficile accettare, oh, fare silenzio e consolare tutto il mio cuore che per te me di cadere. Forse il mio sogno può sperare che qualcosa in fondo c'è, ma poi apro gli occhi e Dio è lì, rivedo te.